Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Mattino. Caro Stacy, buongiorno. Io non vedo nessun problema a entrare allo stadio. Basta vedere nei centri commerciali e sul mercato che c'è una fila enorme per entrare e quindi anche nei tornelli la fila con le mascherine non dà fastidio. Abbiamo visto quando il Napoli ha festeggiato la Coppa Italia che senso di responsabilità hanno avuto i tifosi. Ma qui veramente ci stanno prendendo in giro. E anche le discoteche, quanti si sono ammalati in una discoteca dei ragazzi? Dove sono i dati? Non ci sono, è nello stadio. Come dice giustamente De Magistri, c'è la distanza. Ma di che cosa si sta parlando? Ma ci stanno prendendo veramente in giro, dai. Ma. Non è che sappiamo esattamente, siamo in grado di fare un calcolo esatto di quanta gente si è ammalata in discoteca, no? Cioè, non è che, a meno che non abbiano tutti scaricato l'app Immuni e quindi li si possa tracciare con esattezza. Detto ciò, devo essere sincero su questo, io non ho, non è che abbia proprio una posizione sul tema degli stadi. Se si riesce a fare in sicurezza, direi, come dice De Magistris, forse ci si può anche pensare. Però l'arrivo allo stadio, pensate all'arrivo allo stadio, migliaia di persone che convergono tutte insieme in quella direzione, spesso con mezzi pubblici. Pensate l'ingresso allo stadio, pensate poi cosa succede all'interno, come fai a tenere separate le persone che si trovano in una curva. Ci riesci? Devi mettere il plexiglass tra un sedile e l'altro? Non è facile, non è facile. Però una riflessione si può fare, anche come segno di ripartenza, se volete. 349-238-6666, come sempre, se volete dire la vostra, i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp, anche scritti, e poi a partire dalle 8, l'800-2400-24, se volete intervenire in diretta, se volete parlare anche con Paolo Mieli, che è ospite, ormai lo sapete, con un appuntamento quotidiano a partire dalle 8:15 con le vostre domande, le vostre idee. Siamo qua anche sui nostri social, la pagina di 24 Mattino su Facebook, quella su Instagram, quella su Twitter. Siamo qua. Ed è la parte questa, come ben sapete, dedicata alla rassegna stampa, con un'occhiata innanzitutto alle prime pagine dei quotidiani che, come spesso accade soprattutto il lunedì, sono varie, perché se per esempio, e partiamo da qua per una volta, Libero, giusto perché ce l'ho sotto, si dedica a Putin che dona a Silvio il vaccino antivirus, il giornale si occupa ancora di Berlusconi, dice De Benedetti, la tangente e la bufala su Berlusconi nella polemica che si è innescata nei giorni scorsi dopo l'annuncio che Berlusconi era positivo al Covid. La Verità ci dice, sostiene che hanno indebitato le aziende solo per incassare le tasse, le garanzie statali sui crediti alle PMI, sostiene La Verità, servono soltanto a pagare l'erario. Il Messaggero si dedica al bonus bici facendoci sapere che i rimborsi arrivano a metà, la dote di 210 milioni basta coprire solo il 50% degli acquisti fatti finora dagli italiani, vi ricorderete, ce ne siamo occupati nei giorni scorsi. La Stampa si concentra sulla questione fiscale, il taglio dell'IRPEF da 10 miliardi, Gualtieri che fa sapere che il calo del PIL sarà inferiore al 10%, e poi ci ricorda anche La Stampa che oggi c'è la direzione del Partito Democratico per decidere la linea sul referendum. Anche il Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore del lunedì, si dedica esattamente la questione fiscale, l'assegno unico per la famiglia e la nuova IRPEF, le prime mosse, raccontandoci un po' come dovrebbero funzionare le cose. C'è un pezzo di Valentina Melis all'interno, un'analisi interessante di Alessandro Rosina sul, appunto, sull'assegno unico, che cosa vale anche dal punto di vista culturale. Ci parla di partenza a metà per la scuola, il quotidiano La Repubblica, esattamente su questo l'apertura, perché stamattina suona la campanella nei primi istituti a Milano, Torino, in Alto Adige, ma mancano ancora spazi, insegnanti e resterà la didattica a distanza. Ecco come riapriranno le scuole, il titolo del quotidiano nazionale. Ogni istituto deve avere un referente Covid per informare le famiglie, gestire la sorveglianza degli alunni. Il Corriere della Sera si dedica al piano per i fondi europei, scuola, energia, digitale, così sarà usato il recovery fund, e sul debito c'è la partita tra Italia ed Unione Europea. Il Fatto Quotidiano sul famoso dossier del comitato tecnico-scientifico, Salvini sbugiardato, il dossier Covid dal delegato Lombardo, sono le parole del ministro Speranza. Ci arriveremo tra un attimo a questo famoso dossier del comitato tecnico-scientifico, che sta facendo molto discutere, con visioni e idee diverse. Oggi vi presenterò due posizioni, due letture diverse di tutto questo. Una è quella del presidente della Regione Lombardia Fontana sul giornale, l'altra è quella che troviamo sul quotidiano La Repubblica, e ci racconta un po' i dettagli di come sono andate le cose, di come appunto questo funzionario della Regione Lombardia in realtà avesse in mano il documento. Però, come sempre, in questa prima parte fatemi iniziare da qualcosa di diverso, ed è qualcosa che tocca tutti, perché tocca come ci muoviamo sulle nostre strade. E anche qua mi fa piacere sentire la vostra idea e la vostra opinione. Perché cosa succede? Che cambiano le regole per guidare. Nel testo del disegno di legge di conversione del decreto semplificazione, approvato in settimana al Senato, sono state introdotte alcune importanti novità per il codice della strada. Ci si dedica alla stampa, pagina 12, con una pagina appunto a cura di Luigi Grassia, che ci elenca un po' i dettagli. È di fatto, secondo l'ASAPS, l'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, una vera e propria mini riforma del codice. Ma vediamo quali sono i punti che potrebbero essere controversi. Il primo è il controllo di velocità con autovelox, col telelaser, anche nelle vie di quartiere, e quindi non solamente nelle grandi strade di scorrimento. Occhio, occhio, che da questo momento vi trovate delle multe, che vi potreste trovare delle multe che non vi aspettate. Col nuovo codice i controlli di velocità potranno essere diffusi ovunque nei centri urbani, attraverso postazioni fisse e anche sulle strade di quartiere e locali, dove finora non erano consentite. Si aggiungono cosa? Che agli ausiliari della SOSA, agli ausiliari del traffico, viene data un maggior potere di multa nel caso di divieto di sosta. Accertatori e ausiliari della SOSA avranno maggiori poteri di sanzione, sono figure ibride, lo sapete, non sono vigili urbani. I comuni però gli attribuiscono un potere sanzionatorio, erano stati messi in mezzo per tutta una serie di cavilli, c'erano stati dei ricorsi contro le multe elevate da costoro. Ebbene, il nuovo codice della strada rende più chiare le loro competenze e le amplia. Tema che sarà discussissimo ancora una volta è quello delle biciclette e delle biciclette contromano. Perché cosa succede? Che a tutela dei ciclisti arriva l'introduzione della strada urbana ciclabile a unica carreggiata protetta da banchine pavimentate e marciapiedi con limite di velocità non superiore a 30 km orari, con segnaletica verticale e orizzontale. E poi le biciclette potranno andare contromano su tutte le strade cittadine, tutte le strade cittadine, lungo le quali il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km orari. La vedo male, la vedo soprattutto un po' pericolosa, però anche qua le vostre opinioni sono benvenute. E a proposito di nuovi mezzi che circolano sulle nostre strade, c'è tutta la questione dei monopattini elettrici, soprattutto nelle grandi città, a Roma, a Milano. Ebbene, il Messaggero, nella sua cronaca di Roma, pagina 29, con Lorenzo De Cicco, ci porta sugli effetti che sta avendo sulla capitale tutto questo. oltre 100 infrazioni all'ora, 100 infrazioni all'ora solamente di veicoli parcheggiati in maniera assurda, 100 monopattini parcheggiati male ogni ora, da spostare per evitare che i pedoni ci ruzzolino sopra, o per liberare i posteggi riservati ai disabili, o ancora per permettere il transito sulle strisce dei pedoni. E 100 sono solo quelli calcolati da Bird, uno dei 5 operatori degli ecotrespoli che hanno invaso il cuore di Roma dalla fine di maggio. Belli, bellissimi monopattini, come dice la sindaca Virginia Raggi, peccato che non ci sia alcun limite alla sosta, pochi controlli. I vigili, quando ci sono, se la prendono più che altro con chi guida in modo spericolato, in due sulla stessa pedana, minorenni senza casco, scorribande sui marciapiedi, e quindi libertà o quasi di lasciare i bicicli green ovunque, anche dove non si dovrebbe. E però che cosa succede? Ci racconta Lorenzo De Cicco che il Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale ha bocciato venerdì la mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva di regolamentare la circolazione di bicicli elettrici, creando parcheggi ad hoc, polizze assicurative, magari senza franchigie, per far ottenere giusti risarcimenti a chi è danneggiato. Appunto, hanno votato no. Restano le multe, sollecitate dall'assessore alla mobilità di Raggi. Le ditte, qualche contromisura allo scompiglio generale la stanno prendendo. La stessa Bird, per esempio, ha attivato delle persone, degli esseri umani che ha chiamato, richiamandosi a un hobby Bird Watcher, che sono coloro che girano per la città, un centinaio di persone complessivamente, e queste persone dovranno occuparsi esattamente di rimettere a posto questi monopattini parcheggiati male. A proposito di questo, restiamo direi sul Messaggero con Roberto Amoruso. Vi ricordate che la settimana scorsa ne abbiamo parlato, nello spazio delle 6:45, di questo bonus bici che doveva arrivare, non si sapeva esattamente quando sarebbe arrivato, non si sapeva quando sarebbe stata attivata la piattaforma tecnologica che avrebbe consentito a tutti di richiederlo. Ebbene, ci racconta appunto il Messaggero a pagina 3 che c'è una sorta, quella che viene definita una beffa, in realtà sapevamo già che questi fondi erano ad esaurimento, solo il 50% si prevede avrà il famoso bonus bici. Nonostante i tentativi del ministro Costa di evitarlo, si va di fatto verso un click day. Ora è certo, il decreto attuativo del bonus bici, da poco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, cristallizza la data del 4 novembre per il via libera ai rimborsi degli acquisti fatti fino al 3 novembre, o per l'emissione dei voucher validi per gli acquisti dal 4 novembre fino al 31 dicembre. Un appuntamento molto atteso, visto il boom di vendite. Ma dopo 4 mesi di slittamento dall'avvio del portale, uno scontro tra il Ministero dell'Ambiente e quello dei Trasporti e qualche intoppo amministrativo, insomma, rischia di portare ad una beffa. Prima o poi anche chi dovrà aspettare il 2021 potrà contare su un recupero fino al 500 euro, pari al 60%, ma appunto il rischio forte è che molte persone rimangano a bocca asciutta. Una pausa. State ascoltando un programma offerto da... Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it. Mattino. La signora No Mask ha visto troppe volte Non ci resta che piangere. Ricordati che devi morire. E mo me lo segno. Non si possono conoscere i dati dei contagi in discoteca neanche se tutti avessimo l'app Immuni, perché l'app Immuni non registra la posizione. Ma già i ciclisti non rispettano nessuna regola, adesso li facciamo andare anche contro mano, evviva! A dire il vero, come mi fa notare qualche ascoltatore, in alcune città europee questo già avviene, cioè avviene normalmente che ai ciclisti sia consentito di andare contro mano. Il via libera dovrebbe essere forse preceduto da un po' di educazione stradale nei confronti tanto dei ciclisti quanto degli automobilisti. Ci metto entrambi, ci metto. Veniamo alla parte centrale della nostra rassegna stampa, che si svolgerà su una serie di direttrici una direttrice economica che è quella della riforma fiscale, dei soldi del recovery fund e via dicendo, dove ci sono, tanto per darvi un'idea, un'intervista al cancelliere austriaco Sebastian Kurz, intervistato a Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica, ci sono le idee di detrazioni e di taglio delle tasse che circolano dalle parti del governo, le troviamo sul Sole 24 Ore. C'è una direttrice che è quella del famoso rapporto secretato del Comitato Tecnico Scientifico, sul quale si registra uno scontro tra maggioranza e opposizione, e c'è il nodo della scuola. Ed è da qua che vorrei partire, perché i fronti sono vari. Prendiamo quello che al momento pare fondamentale ed è quello col quale ci troviamo a combattere ogni anno, ossia la carenza di insegnanti, che quest'anno si fa più dura con l'arrivo di Covid. È molto semplice: i ragazzi che vanno a scuola si ritrovano come al solito con un inizio dell'anno nel quale per il primo mese non sai chi sarà la tua insegnante di matematica, chi sarà il tuo insegnante di italiano, nel caso dei licei magari di singole materie, di scienze, di greco, di latino e via dicendo. Quest'anno, come dicevo, si fa un po' più complicata, anzi decisamente più complicata. Orsola Riva sul Corriere della Sera, pagina 7, ci dice che il nodo irrisolto ci fa parlare di oltre 60.000 cattedre ancora scoperte. Che sia solo colpa del Covid è una bugia bella e buona. Mentre governo e opposizione hanno trascorso l'estate a litigare su banchi a rotelle e mascherine, come se fossero l'unico problema della scuola italiana, il rientro in classe sta per essere travolto da un'altra emergenza che non ha niente a vedere con a che vedere con quella sanitaria. O meglio, quella delle cattedre vuote. Oddio. Spero che la collega non si offenda, Orsola Riva, se la correggo, ha anche a che fare ovviamente con le condizioni sanitarie. Quando lunedì prossimo 8 milioni di bambini e ragazzi torneranno in classe dopo più di 6 mesi di stop, molti di loro dovranno fare i conti con un sacco di caselle mancanti. Ma come, la ministra Lucia Azzolina non era riuscita a strappare al MEF, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la cifra record di 84.000 nuove assunzioni che dovevano servire a rimpiazzare i pensionati? Sì. Ma le proiezioni dei sindacati alla mano indicano che ne sono andate a buon fine 24.000 ed è andata anche peggio con la call veloce, che in teoria doveva servire a richiamare frotte di precari meridionali al centro-nord dove ci sono più buchi. Alla prova dei fatti si è rivelata un flop. In Lazio sarebbero arrivate in tutto 3 domande su 5.000 posti vuoti. In Lombardia 59 per 15.000, di cui più di un terzo di sostegno. Ci sono margini di miglioramento, ammette Azzolina, che conta 2.500 domande in tutta Italia. Ma è difficile immaginare, si chiede Orsola Riva, che una madre di famiglia di 40-50 anni, questa è l'età media dei precari, sia disposta a lasciare la famiglia per 5 anni, tanto più ora che con il Covid la libertà di movimento potrebbe essere di nuovo sospesa, per uno stipendio di 1.300 euro che se ne andrebbe via quasi tutto fra affitti e viaggi di andata e ritorno. Il problema ormai è che anche al sud, tradizionale bacino di riserva della scuola, mancano i candidati. Quindi, come capite, è un problema decisamente difficile da risolvere. La questione Covid e la questione del comitato tecnico scientifico. Qua possiamo dare due letture. La prima è quella che ci dà il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. La vicenda, lo sapete, questa riunione del Comitato Tecnico Scientifico, questo rapporto risalente a febbraio nel quale già si indicavano i rischi di Covid e le accuse al governo da una parte di averlo secretato, dall'altra di non essersi mosso con bastante rapidità. Fontana, i verbali del dramma Covid sono interdetto, avevamo ragione, racconta ad Alberto Giannoni, o meglio racconta, è un retroscena, però è un retroscena nel quale le dichiarazioni di Attilio Fontana sono talmente evidenti che di fatto è quasi un colloquio questo retroscena di Alberto Giannoni sul Giornale a pagina 4. E vi voglio portare su questo punto che è quello centrale. perché la cosa della quale si sta discutendo adesso è: le regioni e la Lombardia sapevano o non sapevano? Visto che l'esecutivo aveva uno studio riservato sugli effetti del virus, aveva chiesto, lo ricorderete, Matteo Salvini nella sua lettera al Corriere della Sera, perché non ha condiviso l'informazione con altri interlocutori istituzionali? Perché non ha reperito subito mascherine, camici e respiratori, ma anzi ne ha spedite tonnellate in Cina? Perché ha ignorato i suggerimenti del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, sulle zone rosse? E appunto qua abbiamo un Fontana, questa è la lettera di Salvini. Qua abbiamo un Fontana che si dice interdetto. Dall'altra parte abbiamo il quotidiano La Repubblica che ci racconta, lo fa anche il Fatto Quotidiano in apertura, ve l'ho riferita l'apertura del Fatto Quotidiano, no? Salvini sbugiardato, il dossier Covid dal delegato lombardo. Matteo Pucciarelli a pagina 4 della Repubblica ci racconta come sono andate le cose. Almeno secondo questa ricostruzione, fu Alberto Zoli, direttore generale di Areu, l'azienda regionale per l'emergenza e urgenza della Lombardia, a esporre al ministro della Salute, Roberto Speranza, il piano elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico per fronteggiare la possibile pandemia. Non perché Zoli ne fosse il solo autore, ma semplicemente perché fu individuato come speaker dal gruppo di lavoro, come colui cioè che doveva relazionare al ministro l'esito dello studio del CTS cominciato una decina di giorni prima assieme all'Istituto Superiore di Sanità. Quel faccia a faccia con Speranza avvenne il giorno prima della scoperta del cosiddetto paziente zero a Codogno, e lì in quella sede gli esperti presentarono anche delle proiezioni, quelle curate dal professor Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler. A seconda dell'indice di contagio R0, 1,1, 1,15, 1,35 e così via, fino allo scenario peggiore del 2, numeri in alcuni casi spaventosi, e per questo si invitò ai presenti alla riservatezza, tanto che poi il piano definitivo arrivò qualche giorno dopo ai presidenti via busta e non per email. Questo è il racconto di Matteo Pucciarelli, quella l'opinione di, o meglio la valutazione, le valutazioni di Fontana del presidente della Regione Lombardia, e questo il quadro al momento. Traffico. Mattino. Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché una bici elettrica non deve pagare bollo, assicurazione, cioè non è soggetta agli stessi obblighi di un motorino a combustione interna, cioè vanno alla stessa velocità, possono procurare gli stessi danni. Non ho capito questa disparità di trattamento. Forse la questione è un'altra, è che nelle altre città europee le strade sono larghe il doppio. Consideriamo anche questo quando consentiamo ai ciclisti di andare contromano. Beh, lo sapete che la querelle automobilisti-ciclisti divide più che destra e sinistra, più che sovranisti ed europeisti. È il grande dibattito nel paese. Tra le questioni centrali sicuramente c'è la questione del Recovery Fund, ossia il Next Generation EU, e per uscire dai termini inglesi, i quattrini europei, quelli che dovrebbero arrivare nel 2021. Qua c'è un... Inizierei segnalandovi un'intervista. È l'intervista che sul quotidiano La Repubblica realizza Tonia Mastrobuoni con Sebastian Kurz, leader del Partito Popolare Austriaco, cancelliere dal dicembre del 2017. Sebastian Kurz che fa parte del gruppo dei cosiddetti frugali, così li abbiamo chiamati, ed è un'intervista interessante perché è un'intervista nella quale parla anche molto dell'Italia, parla anche dei problemi italiani, quelli dei quali ci lamentiamo costantemente, come ci lamentiamo costantemente per quello che consideriamo un mancato intervento europeo. Lampedusa, sono felice che ormai quasi tutti si siano resi conto che la politica delle frontiere aperte è sbagliata, molto è cambiato in meglio dal 2015, allora venivo bollato da molti come di destra o destra estrema, oggi la maggior parte dei capi di Stato e di governo dell'Unione Europea la pensa così. Uno dei problemi, dice tra l'altro su questo tema Kurz, è la Turchia, perché spinge i migranti ad andare verso la Grecia sfondando la frontiera. Ed è più un problema dal lato di Kurz, per così dire, dal punto di vista strettamente geografico. E poi c'è la questione del recovery fund. Qua ribadisce la posizione netta degli austriaci: no all'Europa dei debiti, il recovery ci sarà una volta sola. E l'Italia lo deve investire sul futuro. Quasi a dire, Kurz, con questa intervista, che è stato un episodio, cioè la vicenda del Covid non deve far pensare che strutturalmente l'Europa su questo fronte possa cambiare. È un'intervista che dà una serie di spunti interessanti. Chissà quanto sarebbe contento Sebastian Kurz, o se sarebbe contento oppure no, di vedere Mario Draghi a Palazzo Chigi, perché, signori miei, se ne è tornato a parlare quasi ossessivamente, quantomeno a leggere i giornali e guardando a quello che è successo al workshop Ambrosetti di Cernobbio, tanto che Federico Geremicca, in una pagina con la testatina Mine Vaganti sulla Stampa, pagina 5, fa un po' un riassunto tanto della storia di Draghi quanto ci fa capire che l'ex presidente della Banca Centrale Europea non ha la minima intenzione di ficcarsi, scusate l'espressione, in questo casino. Super Mario, blandito e temuto, resta lontano dal teatrino politico. E poi c'è quella che viene chiamata la parabola di un tecnico in una serie di foto che sono curiose, perché non ce lo ricordiamo quasi più, Mario Draghi da giovane nel 91... quando diventa direttore generale del Ministero del Tesoro, poi vicepresidente di Goldman Sachs, poi appunto alla Banca d'Italia, infine appunto alla Banca Centrale Europea. Il presidente della BCE viene, l'ex presidente della BCE viene descritto da chi ci ha parlato con aggettivi che vanno oltre lo scettico. Oggi, insomma, non vedrebbe alcuna condizione per un qualunque suo impegno in ruoli politico-istituzionali. Non sappiamo se è questo quel che sperava Conte, provando a snidare il tecnico tanto stanco. Però così è. Dopodiché, con l'inevitabile premessa che nella politica italiana può sempre accadere di tutto, tipo passare da un governo giallo-verde a uno giallo-rosso in costanza di premier, ecco, fatta questa premessa, si capisce perché Draghi giudicherebbe inesistenti oggi le condizioni di un suo impegno, e intendiamo naturalmente alla guida del governo. Quindi questa ipotesi Draghi che continua ad aleggiare e che poi alla fine non si concretizza mai. Molto concreto invece è quello che noi dovremmo fare per ottenere questi famosi fondi europei. Questa è la settimana, come vi dicevo, nella quale ci sarà la prima riunione del comitato presieduto dal ministro Enzo Amendola. Dovrebbe essere nella giornata di venerdì, se non vado errato. Sul tavolo di questo comitato pioveranno una serie di progetti, non ci pioverà, perché i fondi europei non possono essere utilizzati per quello, non ci pioverà il progetto di riforma fiscale, al quale si dedicano molti quotidiani oggi, la stessa Stampa, poi con un commento di Alessandro De Nicola, e il Sole 24 Ore del lunedì, che ha a pagina 3 un buon riassunto di Cristiano Dell'Oste e Valentina Uva su quella che dovrebbe essere la nuova IRPEF. Dalle parole ai fatti, anche nella stagione del Covid, la marcia di avvicinamento alla manovra finanziaria si apre con interviste, dichiarazioni, annunci. Ci sono gli obiettivi e le variabili da monitorare, e questi vengono ben riassunti: tagliare le tasse sul lavoro, il riordino delle agevolazioni fiscali, e poi, in conseguenza di questo, la riforma dell'IRPEF, che parte come base esattamente dall'assegno unico per i figli. Si andrà verso il riordino di detrazioni e bonus, e dovrebbe arrivare appunto l'assegno unico. Qua vi voglio segnalare, a proposito di assegno unico, il commento che troviamo di Alessandro Rosina, sempre sul Sole 24 Ore, a pagina 2, il quale ci fa notare questo, che il cambiamento, se veramente arriverà l'assegno unico, ed è previsto che arrivi, anche se al momento è una delega, si tratta tratta di un provvedimento che aiuta anche a promuovere un cambiamento culturale. Il carattere di universalità, ossia il fatto che vada sia a poveri che a ricchi, per intenderci, ha alla base l'idea che avere un figlio non sia solo un costo privato a carico dei genitori, ma vada ad arricchire un bene collettivo, le nuove generazioni e la loro crescita, che consente a tutta la società di mettere basi più solide al proprio futuro. Non è un bonus estemporaneo concesso al momento della nascita, ma un provvedimento che interviene in modo strutturale per dare continuità al sostegno alla crescita dei figli. E in questo senso, dunque, un provvedimento che come idea di massima, si trasmette sul futuro. Cosa ancora da questa rassegna stampa? Beh, sul quotidiano La Repubblica è l'unico che riporta questa notizia in prima pagina, ve l'abbiamo citata poco fa, ne abbiamo parlato con il sindaco De Magistris, il sindaco di Napoli De Magistris, che non ha voluto commentare. Abbiamo l'indagine sul presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a pochi giorni dal voto. L'accusa, racconta Concita Sannino, è di aver favorito i suoi 4 autisti. Cosa avrebbe fatto? Li avrebbe sostanzialmente erano degli ex vigili. I 4 vigili autisti erano inseriti come membri dello staff delle relazioni istituzionali, pur essendo privi di formazione, curriculum e specializzazione. Un escamotage che sarebbe servito solo ad innalzare la retribuzione, con un'indennità lorda annua di 4.600 euro. 4 appunto le persone coinvolte, non sarebbero indagate, è in corso la valutazione dei PM, però appunto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a questo punto è indagato. Non abbiamo tempo nemmeno rapidamente per le ultime segnalazioni. Mi facendo Peter Bescapè dalla regia, quindi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con Paolo Mieli, se volete parlare anche con lui, l'800 24 00 24, per intervenire in diretta. Avremo ospite Matteo Renzi e poi con Massimo Polidoro parleremo dei no mask, dei negazionisti del virus. A tra poco. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente ed ha una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.